Very good. So I hope you feel. I hope you had a good night's sleep. Spero che voi abbiate avuto una buona notte di riposo. If not, you'll have to catch up at the siesta. Altrimenti dovrete recuperare durante il pisolino pomeridiano, la siesta. So this morning we have to remind ourselves of three exercises. Quindi questa mattina ci dobbiamo ricordare di faremo tre esercizi. The first one is around the process of eating. Allora, il primo riguarda il processo del mangiare. The second one is around work or doing things. Il secondo invece riguarda il lavoro o il fare le cose. And the other one is what to do when there's nothing to do. E il terzo esercizio riguarda il cosa fare quando non c'è niente da fare. So when it comes to eating, this is an opportunity for us to investigate the process of desire. Quanto riguarda il mangiare, questa è una buona occasione per indagare, investigare su il tutto il processo del desiderio. Specifically the desire around enjoying things. Quindi soprattutto è il desiderio che riguarda il godere delle cose, apprezzare le cose. So when it comes to unpleasant things, our task is to take suffering out of pain. Quindi per quanto riguarda le cose spiacevoli, il nostro compito è quello di estrapolare, diciamo, la sofferenza dal dolore. There is a distinction to be made. Quindi qui occorre fare una distinzione. Pain is given. Perché il dolore è una cosa scontata, cioè inevitabile. Suffering is optional. Invece la sofferenza è facoltativa. This hopefully, for those of you who are new, will become more apparent over today. Questo speriamo che, soprattutto per le persone che sono nuove alla pratica, diventerà sempre più evidente nell'arco della giornata. But the other side is to take the indulgence out of pleasure. Ma l'altro lato della medaglia, faccia della medaglia, è del togliere l'indulgere, no? Dal piacere. Indulgence means a psychological dependency on something in order for us to be happy. Questo indulgere significa trovare piacere in qualcosa, nel fare qualcosa, al fine di essere felici. Psychological dependency. Sì, quindi è una sorta di dipendenza psicologica. So that when we don't get what we want, we feel unhappy. E quindi di conseguenza quando non riusciamo a ottenere quello che vogliamo diventiamo infelici. Now while we're indulging something, what's the problem? Quindi quando stiamo indulgendo a qualcosa, ci lasciamo andare a qualcosa, qual è il problema? A film, a good meal, friendship. Quindi può essere un film o un buon pasto o un'amicizia. So while we are indulging in these things, this is nirvana. Quindi nel momento in cui noi ci stiamo godendo queste cose, beh, questo è il nirvana. But unfortunately, it comes to an end. Ma fortunatamente, purtroppo, queste cose finiscono. And then we have to suffer the consequences of this psychological dependency. E poi cominciamo a soffrire delle conseguenze di questa dipendenza psicologica. So the first one is that these pleasurable things become obsessive. Quindi la prima di queste conseguenze è che queste cose piacevoli possono diventare ossessive. They become addictive, compulsive. Diventano come delle dipendenze, diventano compulsive. The second one is that when we don't get what we want, we feel frustrated. La seconda conseguenza è che quando non riusciamo a ottenere quello che vogliamo, allora diventiamo frustrati. Then when we lose what we have, we suffer grief. E poi quando perdiamo quello che abbiamo, soffriamo di una sorta di perdita, un senso di perdita. And beneath all dependency is anxiety of loss. E alla base di ogni dipendenza c'è questa ansia che deriva dalla perdita. And then on top of that, there's boredom. E al di sopra di questo c'è la noia. Miserable, no? Questa è veramente una cosa triste, molto triste, cioè, miserabile. Even though we know, even though we can see that greed motivates our consumerist society. Anche se noi vediamo che questa avidità è ciò che ci motiva nella società consumistica. What we don't accept is the engine that's caused by boredom. Quello che noi riusciamo a accettare è il motore di tutto ciò che è causato dalla noia. This constant seeking for something which is going to create the same sort of excitement is driven by boredom for what we've already experienced. Quindi questa continua ricerca di qualcosa che ci può dare un senso di eccitazione è in realtà motivato e spinto proprio da quello che ha creato la nostra noia. It would be a miserable world if there was only a pizza margherita. Sarebbe proprio un mondo molto triste se ci fosse solo la pizza margherita. It is because we have many types of pizzas that we can indulge our enjoyment of. È proprio perché abbiamo una scelta di molte pizze che possiamo permetterci di indulgere in questo piacere, insomma, del mangiare. So you can see that even though we find great happiness, we find excitement in indulgence, it actually causes a lot of suffering. Quindi potete vedere che anche se troviamo tutto questo piacere, questa eccitazione, diciamo, nell'indulgere, si vede anche che crea molta sofferenza. So our task is to find a way of enjoying what life has to give us without this psychological dependency. Quindi il nostro compito è di poter godere di ciò che la vita, delle cose belle che la vita ci può offrire, però senza soffrire di questa dipendenza psicologica. The Buddha enjoyed good food. He experienced the taste of food, but he did not experience greed for the food. Il Buddha apprezzava il buon cibo, riusciva a godere del buon cibo, ma era libero da questa avidità, da questo desiderio, questa brama per il cibo. It says this in the scriptures. E questo è proprio detto nelle scritture. He would seek a beautiful shrine to go and eat his food. E lui cercava un luogo piacevole per poter consumare il suo cibo. So now, when we are eating, this is a really an obvious occasion to investigate this. Quindi quando mangiamo, questa è proprio una buona occasione, un'opportunità proprio per investigare questo processo. And this process is the same in all areas in our lives where we are enjoying something. E questo processo vale per tutte quelle situazioni nella nostra vita quando noi ci lasciamo andare al desiderio di qualcosa, indulgiamo a qualcosa. So the enjoyment of nature, the enjoyment of art, relationships, spiritual joy. E quindi godere dell'arte, della natura, di un'amicizia e anche questa gioia spirituale. Same psychology. Perché la psicologia che ci sta dietro, il processo è sempre lo stesso. So if we can understand the psychology in eating, we have cracked the problem. E quindi se noi riusciamo a capire questo processo durante il processo del mangiare, allora è come se avessimo risolto il problema. So, the important thing is that when you approach the food, you are aware of your hunger. Quindi la cosa importante è che quando voi vi apprestate a mangiare, siate consapevoli della vostra fame. So, part of it is natural appetite, the other part is seeking happiness in muesli. In una parte è un vero appetito, diciamo, naturale. L'altra parte è invece il cercare la felicità nel muesli. So, we take the food we need. Quindi prendiamo il cibo di cui abbiamo bisogno. And when we are sat at the table, dopo che ci siamo seduti a tavola, we create the right relationship with the food. Creiamo una giusta relazione col cibo. So this food is to nourish the body, is to feed the body. Questo cibo serve a nutrire il corpo. Whether it tastes nice or not is immaterial. Quindi che abbia un buon gusto o no, questo è irrilevante. Ah, so long as it's not disgusting. Purché non sia disgustoso. So, when we put the food on the tongue, and there's an explosion of delight. Poi mettiamo il cibo sulla lingua e c'è un'esplosione di delizia. Yeah. So, put your attention right there where you sense that taste. Quindi mettete l'attenzione proprio lì dove percepite questo gusto. And your noting word is tasting, tasting. E qui l'etichetta mentale che potete usare è gustare, gustare. So keep asking yourself, what is tasting before I give it a name? E provate a chiedervi cos'è il gusto o il gustare prima che io gli dia un nome. What are the sensations which constitute the experience of music? Quali sono le sensazioni che costituiscono questa esperienza del muesli? And then, when it's time to swallow, you can also make it a decision, intending to swallow. Poi quando ingoiate potete trasformarlo in un'intenzione, quindi direte intenzione di ingoiare. Let the food drop, you see, and there is a moment of gratification. Poi c'è il cibo che va giù nello stomaco e questo è seguito da un momento di gratificazione. And then, more. E poi sale questo desiderio di ancora. So, again, the intention is to feed the body. E di nuovo qui c'è l'intenzione di nutrire il corpo. And so, at some point, you're very clear as to the taste on this little piece of skin on your tongue. A un certo punto siete veramente consapevoli di questo piccolo pezzo di pelle della lingua, il gusto che tocca questo pezzo di pelle. So all taste is simply dependent on this piece of skin. Quindi ogni gusto, l'atto del gustare, dipende da questa superficie, diciamo, molto piccola di epidermide, di pelle, della lingua. The rest of the body is not concerned with the taste of the food. Il resto del corpo non è coinvolto in questo gustare del cibo. Then, when you are very clear about tasting only happens on the tongue, quando vi è molto chiaro questo fatto che il gustare succede solo, accade solo sulla lingua, become aware of the atmosphere that's been created around the food. Diventate consapevoli dell'atmosfera che si crea intorno al cibo. So this is the emotional value that we put on this food. Questo è il valore emotivo che noi poniamo sul cibo. It might be happiness, it might be just equanimity, it may even be disgust for some people. Potrebbe essere felicità o equanimità o per alcuni anche il disgusto. So try to make a separation between the physical body, the body that is physical, and the mind, which is mental, quindi cercate di fare which una is emotional, excuse me. Distinzione tra il fisico, quindi il corpo, l'aspetto fisico, e quello invece più emotivo. So these are two different processes in Buddhist psychology. Sono due processi diversi nella psicologia buddista. The one dependent on the other. E uno dipende dall'altro. And then, finally, when you come to the end of a meal, poi alla fine, quando appunto finite il vostro pasto, so now you have to accept radical impermanence. E qui a questo punto dovete accettare una impermanenza radicale. So first of all, it's good to raise gratitude. Innanzitutto è bene far sorgere un senso di gratitudine. Allora, thank you, grazie. Allora potete dirmi mentalmente grazie. Then, goodbye. E poi addio. Sì, addio. It is finished completely, it will never come again. È finito completamente, non tornerà mai più. Then, when you have said goodbye, see if there's any reaction. Poi quando avete detto addio, vedete se c'è una qualche reazione. Maybe there is some grief, you see. Forse c'è un senso di perdita. So, this is the beginning of our real investigation of the psychology around pleasure. Questo è l'inizio della nostra investigazione, la nostra ricerca riguardo la psicologia intorno al piacere. So now, after we've eaten, there's a time when there's before the work period when there's nothing to do. Quindi dopo la colazione c'è un periodo prima dei lavori in cui non c'è nulla da fare. So here, this is a dangerous time for us because we relax too much and the mind begins to wander. Questo è un momento pericoloso per noi perché ci rilassiamo troppo e la mente comincia a divagare. So we have to give the mind something to do. Dobbiamo dare alla nostra mente qualcosa da fare. So you can do some quiet walking meditation. Potete fare una meditazione camminata tranquilla. Or you can practice what we did last night, which is abiding in the present moment. Oppure potete praticare quello che abbiamo fatto ieri sera, cioè il dimorare nel momento presente. It's a state of just pure awareness, pure receiving. Uno stato di pura consapevolezza, puro ricevere. Ah, sì? Not doing anything. Il non fare nulla. Ah. So we can do it sitting down or walking around, it doesn't matter. Possiamo farlo da seduti o camminando in giro, non ha importanza. Something you can try to see the different relationship that seeing and hearing have to time and space. Potete osservare, per esempio, la diversa relazione che hanno l'udire e il vedere al tempo e allo spazio. If you close your eyes and just hear, se chiudete gli occhi, semplicemente ascoltate, space widens, time shortens. Si amplia lo spazio e si accorcia il tempo. When you open your eyes, invece quando aprite gli occhi, space confines, time widens. Lo spazio si restringe e si amplia il tempo. See if that's true for you. Vedete, verificate se è così anche per voi. Ah. Then there's the work period. E poi ci sarà il periodo di dei lavori. So now in our meditation we have a very strong sense of somebody watching, somebody feeling, somebody experiencing. In our meditation. Nella nostra meditazione formale abbiamo sempre questa sensazione di qualcuno che osserva, qualcuno che nota, che è consapevole. So we think that in daily life we have to, as it were, keep observing ourselves. E quindi abbiamo questa idea che anche nella nostra vita quotidiana dobbiamo continuare a osservarci. But this is a to observe ourselves doing something is to create two mental states. Per osservare noi stessi mentre facciamo qualcosa, questo significa come creare due stati mentali diversi. The one after the other in very quick succession. E questi accadono uno dopo l'altro in una successione molto veloce. And there are certain things that we cannot do it with. E ci sono alcune cose rispetto alle quali questo non funziona, non riusciamo a farlo, questo giochetto. If you try to be aware of yourself when you're talking, you just begin to lose the conversation. Se cercate di essere consapevoli di voi stessi mentre parlate, è facile che perdiate il filo del discorso. If you try to add up your bills and be aware of yourself adding up your bills, you get them all wrong. Se cominciate a fare i vostri conti e vi osservate mentre fate i vostri conti, è facile che ve li sbagliate tutti. So in ordinary daily life, self-awareness arises naturally. Quindi nella nostra vita quotidiana questa autoconsapevolezza come se sorgesse in modo naturale. But by displacing our attention constantly on what we are doing, ma mettendo la nostra attenzione costantemente su ciò che facciamo, we lose the sense of self and we are just doing. Noi perdiamo questo nostro senso del sé e stiamo semplicemente facendo. So we do it naturally when you watch a film, you lose yourself, eh? E questo succede in maniera naturale quando, per esempio, guardiamo un film, è come se ci perdessimo nel film. And then at the end, you wake up. E alla fine vi svegliate. So, whatever you're doing physically, like washing pots or whatever you're doing, qualunque cosa che facciate fisicamente, lavare le pentole o qualsiasi cosa, put your attention exactly on what you're doing. Quindi mettete tutta la vostra attenzione esattamente su cosa state facendo. And as you keep doing that, every so often you will just be doing. E facendo in questo modo, ogni tanto vi accorgerete che state semplicemente facendo l'azione. So this is meditation in action. Questa si chiama meditazione in azione. And this you can take directly into your daily life. Yeah? Questa è una cosa che voi potete portare direttamente nella vostra vita quotidiana. So remember, you can't stop self-awareness arising. Quindi ricordatevi, non potete interrompere questa autoconsapevolezza dal sorgere. But you keep displacing your attention on exactly what you're doing. Ma quello che potete fare è continuamente riportare l'attenzione su quello che state facendo. Now, to make the action wholesome, you have to enter it with the right intention. Per poter far sì che l'azione sia salutare, dovete entrarci con la giusta intenzione. If you do something with a sense of rush or anxiety, you'll be developing rush and anxiety. Se fate qualcosa con un senso di fretta o di ansia, questa cosa la farete con la fretta e l'ansia. You'll be developing it. Ah sì, e quindi lo state sviluppando ancora di più questo senso. So you have to wait till the stillness comes. Quindi dovete attendere fino a che arriva questo stato di stabilità e di immobilità. And then give yourself a good reason for doing the work. E poi date a voi stessi un buon motivo per fare questo lavoro. For my benefit, for the benefit of the others, for both myself and the others. Per esempio, potete dire che lo fate per il mio beneficio, per il beneficio degli altri, o per il beneficio mio e degli altri. And that will be the mental state that you are developing while you're doing something. Questo è lo stato mentale che svilupperete mentre fate quell'azione. If while you're doing something your mind wanders, so begin again. Se mentre state facendo una determinata cosa la mente divaga, non importa, ricominciate. So this morning we have three very important exercises. Quindi questa mattina abbiamo tre esercizi molto importanti. Whenever we're eating, we are investigating the process of desire. Ogni volta che mangiamo stiamo investigando questo processo del desiderio. And we want to become clear as to the distinction between enjoying something and indulging something. E vogliamo essere molto chiari riguardo a questa distinzione tra il godere di qualcosa e l'indulgere a qualcosa. And the key is the intention. E la chiave qui è proprio l'intenzione. Then many times during today there will be nothing to do. Poi molte volte durante la giornata ci sarà questo stato del niente da fare. So make sure you give the mind something to do or it will wander. Quindi assicuratevi di dare alla vostra mente qualcosa da fare, altrimenti comincerà a divagare. And this is where noting can be very helpful. E qui in questa situazione il notare mentalmente è molto di aiuto. And then finally meditation in action, meditation in ordinary daily life. E infine questa meditazione in azione, cioè meditare nella vita quotidiana. To enter the action with the right intention. Quindi entrare nell'azione con la giusta intenzione. And whenever the mind wanders, begin again. Ogni volta che la mente divaga, si ricomincia. And then we'll start again at 9:30. Quindi ci ritroviamo qui alle 9:30. Now, are you going to play the CD? We don't have the CD, so I'll read it. Will you? Mm-hmm. Okay. For everybody? Yes. Well, I'll just say. So, Sandra will use my detailed guided meditation to guide you through the next session. Quindi io la prossima sessione io leggerò le istruzioni dettagliate sulla meditazione guidata di Bhante Bodhidharma. Now there are some of you who have who know what you're doing. Alcuni di voi sanno già cosa fare. In this particular technique. Riguardo a questa particolare tecnica. So feel free to meditate in your own rooms. Quindi per queste persone più esperte, diciamo, potete sentirvi liberi di praticare nella vostra stanza. But if you think you would it would be a benefit to just hear it, then feel free to come. Se invece sentite che sia di beneficio riascoltare le istruzioni di base, allora potete unirvi al gruppo qui in sala. Buon appetito.